parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Eccoci qua. Allora, come potete... da questa storia si possono capire, le parole sono un mezzo. È il modo in cui le usiamo che fa la grande differenza. Volevo raccontarvi anche una curiosità legata a questa canzone, ovvero che nel 2007 il grande capitano dell'Inter, Javier Zanetti, ha tradotto le frasi di Alberto Lupo della canzone e ha creato una versione spagnola cantando La Commina. Veramente un piccolo gossip legato a questa canzone. Ma ora volevo invece passare alla poesia, da leggervi, che in realtà non è solo una poesia ma è proprio un racconto che non tocca le parole d'amore, non tocca queste, diciamo, agganci che si riescono a creare attraverso le parole, che anche dove un amore è vuoto con le parole riesce a riempirsi, ma è proprio un senso più profondo dietro ogni parola, al significato che questa ha per portare la verità, per capire quanto la parola è legata anche alla definizione di se stessa, quindi a quello che non può che non essere. E qui l'unica cosa che mi viene in mente per continuare i gossip è un po' come quando Jon Snow davanti a Cersei lui promette la fedeltà ancora a Daenerys, non riuscendo a mentire, perché, e dice: non riesco a mentire perché se facessi una menzogna anche a fin di bene, poi le parole non avrebbero più senso e tutto sarebbe una bugia. Ma la parola è una macchia di inchiostro su un foglio di carta, una vibrazione significante, ma allo stesso tempo è l'involucro di tutto ciò che è la parola, dell'universale simbolico che ci nutre ogni giorno, come il cibo, più del cibo. Abbiamo bisogno delle parole per vivere, parole pensate, sentite, pronunciate, lette, immaginate, gridate, sussurrate. Senza di loro si muore. Narra la leggenda di un tragico esperimento condotto da Federico II, che ne privò dei neonati con l'intento di scoprire il linguaggio originario dell'uomo. Oggi invece sta succedendo qualcosa di opposto, ma altrettanto tragico. Siamo invasi da parole che vengono stuprate. Ci troviamo di fronte a un abuso che svuota la parola della sua forza vitale. Veniamo così, ogni giorno, frastornati da parole tossite, pubblicità, politica, media, social media, social network. Sempre più si fanno trascinare da una tendenza ad usare le parole come strumenti per arrivare a un fine. E il fine, purtroppo, è sempre quello di vendere o di vendersi, considerando la complessità e l'ampiezza del significato di questo verbo. La natura emozionale, quella che muove da dentro, viene ignorata. Un esempio palese di questo fenomeno è la crisi dell'editoria, una crisi di qualità e di quantità. Di qualità perché le persone abituate a questo nuovo modo di comunicazione assuefatte da questa droga vanno a cercare proprio questo nei libri. E di quantità perché le parole, indignate da questo affronto, resistono in ogni modo, cercando di non farsi piegare a questo uso. La graduale estensione della poesia letta, forma letteraria che più di ogni altra necessita di una forza vitale naturale e autentica che la spinga fuori, è un sintomo chiaro della malattia. L'editoria è solo un esempio regio della dramma che coinvolge ogni ambito della vita sociale, come la politica, dove la parola non è più relazione, non è più incontro, ma messaggio fumogeno, portatore di immagini superficiali e stordenti. La perdita di fiducia nella parola mette a rischio non solo il concetto di civiltà, ma tutto ciò che riguarda l'incontro tra uomo e uomo, tra donna e donna, e la possibilità di esprimersi, di capirsi, di costruire qualcosa insieme. Per questo è così importante essere protagonisti di un cambiamento di rotta. Dobbiamo ripartire dal singolo, di impegnarsi nel valorizzare la profondità di ogni parola. Mi mancano poche pagine per finire il libro di Jean-Paul Sartre, Le parole. Un libro incredibile. E ciò che mi ha colpito dal libro di Sartre è la totale fluidità e spontaneità del suo scrivere. Anche quando arriva a esprimere concetti difficili e articolati, ogni cosa rimane vera. Ogni cosa descritta è reale, perché le sue parole sono impregnate di un'essenza che muove da dentro, emoziona da dentro ed esclude ogni forma di giudizio. E allora, cerchiamo di salvare la poesia, cerchiamo di farlo attraverso le parole, con una poesia, che si chiama per l'appunto parole. Nella via, senza identità, che confonde se stessa e i suoi passanti in un gioco di vuoto tra confine e città, non cedo, non cedo, non cedo, non cedo al dominio del grigio, ma cerco tra voi un senso in questa realtà. Mi muovo da sprazzi di luce all'ombra di un sogno che chiamo unità. E con questo vorrevo ringraziarvi, sperare che questa mia puntata vi abbia portato qualche riflessione sull'utilizzo che fate delle parole che ascoltate, che dite, perché conta anche molto di quello che ascoltiamo. Noi siamo fatti delle parole, delle azioni che viviamo con gli altri, siamo fatti della vita degli altri, e riuscire a capire anche cosa ascoltare, cosa non ascoltare, cosa credere, cosa non credere, è tanto importante quanto la responsabilità che abbiamo di dire tutto ciò che è giusto dire, di davvero dire, fa bene alla relazione che abbiamo con la nostra vita e il nostro mondo. Questo è un po' lo scopo della parola e spero di auguro che passiate una buona serata a questo punto e di risentirvi domani continuando il nostro viaggio nella poesia e nella musica. Buonanotte a tutti, qua era Gas che vi parlava. E questa era la buonanotte di allineamenti su Ciao Radio Como. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.